Cavolo, città, accoglienza, abbandoni. E allora inizierei col dire che abbiamo scelto un tema semplice, insomma, un tema molto semplice, che è quello della città, dell'accoglienza, degli abbandoni, che portano tutta una serie di riflessioni, a livello giuridico, geopolitico, geoeconomico e sociale. Allora, l'intento di oggi non è quello di andare a indagare, quali sono le cause che portano ai grandi spostamenti di corpi umani, a livello globale, perché appunto si aprirebbero delle finestre, diciamo, troppo ampie. Il nostro intento invece è quello di focalizzarci su quello che sono stati gli studi, le ricerche e le analisi delle persone che sono con noi oggi, che vi vado a presentare, a partire da Antonella Romeo, giornalista che ha vissuto per 20 anni in Germania, è stata giornalista sia in Germania che in Italia. E indipendente, una giornalista indipendente, ha fatto parte del comitato di solidarietà dell'ex MOI di Torino, che ora andremo a vedere di cosa si tratta. E lei è stata curatrice di questo libro che si chiama Abbandoni, assembramenti umani e spazi urbani, rifugiati e negligenti politiche di accoglienza. È un libro collettaneo di cui lei è stata la curatrice. E alla mia destra invece Enzo Scandurra, docente all'Università La Sapienza di urbanistica, se non sbaglio, esatto. E Ilaria Agostini, ricercatrice in urbanistica a Bologna e parte del gruppo di ricerca di Per un'altra città di Firenze. E anche il libro La città e l'accoglienza, di cui sono autori entrambi, è un libro collettaneo, per cui scritto da diversi altri urbanisti e non. Bene, niente, allora io lascerei la parola ad Agnese per introdurre il primo punto che vorremmo affrontare oggi. Ok, grazie. Allora, sono indubbiamente due libri diversi, molto, molto diversi, che però affrontano un tema comune, quindi come la città di oggi si rapporta all'accoglienza, quindi a queste genti, a questo popolo nuovo che si sposta dall'estremo Mar Mediterraneo, quindi arriva nella Fortezza Europa. Quindi come è cambiata la città nel corso della storia? Quindi una città che in realtà si è formata grazie alle mescolanze, che quindi si è stratificata nel tempo e ha sviluppato una serie di ambienti urbani proprio dedicati all'accoglienza. E com'è la città oggi? Quindi quali sono le principali differenze? Non so se Ilaria vuoi intanto dirci qualcosa. Sì, allora, il libro che presentiamo, che si intitola La città dell'accoglienza, è edito dalla Manifesto Libri, l'abbiamo scritta con Enzo Scandurra, Lidia De Candia e Giovanni Attili. Il compito che mi è stato attribuito nella spartizione dei carichi, è stato quello di indagare quale conformazione dello spazio nella città antica è stato determinato dallo spirito di, appunto, di mescolanza, come è stato detto, di accoglienza all'interno, no, nel seno della città, delle varie forme di varie nazionalità, varie persone, i bisognosi, i malati, i poveri, i pellegrini, gli asilanti, i rifugiati, eccetera, che ci sono sempre confluiti nelle città. Le città si è dimostrata nei secoli, nei millenni, capace, no, di accogliere e di comprendere anche queste marginalità, no, queste diversità. E ha fatto leva su un costume antico di cui nella lingua italiana, nelle lingue indoeuropee resta memoria. Cioè la parola ospite è, significa tutt'oggi questa doppia sia una passività che un'attività, cioè chi ospita e chi ospitato, l'ospitato e l'ospitante, non solo in italiano ma anche in altre lingue europee, appunto sono parole uguali che... Però ora qui mi sto un po' divagando perché ho poco tempo. Comunque la radice della parola ospite, che è appunto gostis, ha dato le semi simili in altre lingue, gast, host, guest, no? Nelle, in inglese e in tedesco. Quindi capiamo che da questo si capisce che l'uguaglianza, no, tra ospite e ospitato, cioè il patto di uguaglianza che si stringeva nell'espletazione, no, dell'ospitalità, è antico e lega appunto le due figure, cioè chi ospita chi viene ospitato. Ecco, questa caratteristica, questo forte legame di quello che poi è stato è stato messo a fuoco dagli antropologi, no? Il dono, il donare, il ricevere, il controdono. Ecco, questa attitudine è forte nelle città storiche ed ha effettivamente dato forma agli spazi pubblici, allo spazio pubblico della città. Lasciamo ora l'antichità che ci porterebbe troppo lontani, ma nell'alto Medioevo, nell'Europa occidentale si formano delle strutture di accoglienza, i cosiddetti xenodochia o le scuole peregrinorum, che hanno appunto come finalità quella di accogliere le varie marginalità, i vari esseri umani, le varie persone che attraversano la città e che non trovano un abitare, non trovano spazio in un abitare tra virgolette più normale. E questo, lo xenodochia non avrà mai un tipo architettonico specifico, no? Non siamo capaci, ma è anche il periodo, quello dell'alto Medioevo, in cui i tipi architettonici non si definiscono, non prendono una forma, sono tipi in germe, no? Questo, con questa espressione adotto il linguaggio di Lewis Mumford, che metteva in evidenza, no, come i tipi architettonici classici, tipici della città, ancora prima dell'anno 1000 non si erano formati. Sarà poi con la modernità che il teatro assume la forma di teatro, l'ospedale assume la forma di ospedale, eccetera, eccetera. Ecco, a noi interessa questa, la forma dell'ospedale, cioè del luogo dove si ospitano, chiamiamole, le marginalità, i bisognosi, i poveri e i pellegrini. È appunto dopo il 1000, con la grande crescita delle città europee, con questa crescita culturale ed economica, questa espansione economica che poi ha dato linfa alla crescita dell'incasato, come si dice, è in questo momento che l'ospedale comincia a prendere una forma sua propria, sulla quale andrò molto veloce, e che è riassumibile in queste grandi sale dette dal tedesco Hallen, grandi sale che si ritrovano appunto simili in tutta l'Europa, sia occidentale che orientale. Grandi sale in cui l'ospitalità è promiscua, cioè all'interno dei letti, sotto lo stesso tetto, grandi sale quasi come navate di chiesa, trovano rifugio i poveri, i pellegrini, i transeuntes, come dicevano, le partorienti, i ragazzi, i bambini orfani, i deboli, relitti, eccetera, eccetera. in generaliter omnes, dicono i documenti, cioè in genere tutti quelli che avevano bisogno. Sarà poi col Rinascimento che questa istituzione dell'ospedale si laicizza, diventa un'istituzione di carattere civile, cioè sono i comuni, le comunità che gestiranno, le comunità laiche, non religiose, che gestiranno gli ospedali, i quali ospedali poi si conformano. A Firenze ne abbiamo molti esempi, dall'ospedale di San Paolo in piazza Santa Maria Novella, Santa Maria Nuova, eccetera, ospedali di cui dico il carattere principale è quello della halle, cioè di questa grande sala che si incrocia a formare appunto le due corsie a croce, che sarà il tipo architettonico dominante nell'architettura ospedaliera finché gli ospedali non diventeranno un insieme di padiglioni. Nella città gli ospedali si presentano con dei portici sullo spazio pubblico, dei portici che sono il pronto soccorso per pellegrini e bisognosi e slarghi. Pensiamo a Santa Maria Nuova, pensiamo appunto al San Paolo in Santa Maria Novella, all'ospedale di San Matteo in piazza San Marco, l'ospedale degli Innocenti in piazza Santissima Annunziata. Non c'è tempo per raccontarvi come il modello declina, però la croce delle due corsie presto diventa un panopticon, e a quel punto l'ospitalità diventa qualcos'altro, ma qui si va nel moderno, e lascerei la parola agli altri colleghi e amici. Ok, Enzo, tu hai parlato di processi di deterritorializzazione e di riterritorializzazione in riferimento a appunto questi movimenti di gente che appunto lasciano la loro terra e quindi deterritorializzano per poi arrivare in dei territori nuovi, in cui possono dare origine a moltissime nuove dinamiche, moltissime forme di socialità, di vita collettiva. Ecco, se ci puoi un po' spiegare di questi processi, perché tra urbanisti ci si intende quando si parla di processi deterritorializzanti e riterritorializzanti, ma insomma se ce ne puoi parlare un po'. Sì, innanzitutto due premesse, cioè la prima è che questo lavoro sulle origini della città, ecco, di cui ha parlato prima Ilaria, nasce all'interno dell'università. Dico questo perché, sottolineo questo anzi, perché nelle università si segue un po' quello che è il pensiero dominante, insomma, quindi quando si parla di città si fa questa ideologia delle smart city, delle città sostenibili, delle open source city, eccetera, eccetera, eccetera, tutte queste fantasticherie su cui c'è una vasta produzione accademica, oltretutto finanziata dall'Europa, e come dire, i problemi veri sono invece praticamente rimossi. Questa quindi è una cosa di cui ci tengo un po' a sottolineare. L'altra è il titolo, la città e l'accoglienza. Su questo abbiamo fatto anche delle discussioni, cioè c'era chi sosteneva tra noi che la città è l'accoglienza e non la città e l'accoglienza, cioè, e questo voglio dire, è vero, nel senso che poi il titolo è rimasto così perché ci sembrava che altrimenti creasse qualche confusione, ma nelle origini la città è accoglienza, voglio dire, la città nasce proprio come incrocio, crocevia di barbari, di mendicanti, di vagabondi, di eccetera, cioè questo è come dire, è il senso della scelta. Non solo, ma poi anche più tardi, chi ha letto Cattaneo, che parla delle città, poi in particolare le città della Toscana, ma insomma delle città, dei municipi come luogo di libertà, come dire, esempi di democrazia che lottavano solidarizzando tra loro contro l'impero e contro la Chiesa, insomma, quindi la città è stata sempre un luogo, il motto ripreso da Carlo Marx, come dire, l'aria della città rende liberi, ecco, anche questo, perché quelli che lavoravano nei campi, diciamo, si affrancavano venendo in città, perché acquistavano una coscienza, eccetera, eccetera, insomma tutta l'ideologia marziana su questo. Ora, che cosa succede? Che questo fenomeno migratorio in realtà non è una contingenza, insomma, questo lo sappiamo, cioè durerà molti anni, non sappiamo con quali esiti, e d'altra parte questa difesa della città, ecco, di questa difesa identitaria è una cosa che è destinata, voglio dire, a fallire, nel senso che non c'è una possibilità di arginare questi movimenti migratori. Qui, per inciso, movimenti migratori, spesso si distingue tra migranti economici, migranti di guerra, perseguitati, eccetera, migranti che, secondo il senso comune dei media, girano perché gli va di girare, non si sa bene perché. Ecco, in realtà tutti questi migranti si possono mettere sotto un'unica voce, che è quella dei migranti ecologici, migranti per fatti di appunto per effetti dei cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici che possono essere anche dovuti alla guerra, ma comunque sempre cambiamenti climatici, cioè la situazione in certi paesi è diventata ormai insostenibile, quindi c'è questa partenza di queste persone, tra l'altro che rischiano la vita, sapendo di rischiare la vita, quindi voglio dire, immaginiamo tutti come deve essere, quale spinta, voglio dire, è necessaria per fare questo viaggio. Detto questo, questi migranti vengono accolti, tra virgolette, nelle città, e qui si incontrano un altro tipo di rivolta, ecco, di rivolta, che è quella delle periferie, cioè anche questa, voglio dire, è simile per certi versi, insomma, la rivolta delle periferie, cioè queste periferie che in queste città ormai completamente mutate di senso dal neoliberismo, insomma, che imperante, questi abitanti delle periferie, anche loro combattono, diciamo, contro un centro che è considerato come il luogo del potere, voglio dire. Per darvi una prova di questo, basta vedere le ultime elezioni che ci sono state a Roma. La sinistra ha vinto soltanto nel quartiere Parioli, insomma, cioè il quartiere simbolo benestante, voglio dire, lì ha vinto la sinistra, poi in tutto il resto della città, periferie soprattutto, il voto è stato appunto un voto di protesta, un voto per i grillini, insomma. Ecco, allora, voglio dire, noi ci siamo posti questo problema di riandare alle origini della città, cioè com'è nata questa storia che le città sono diventate dei fortini, dei luoghi di, appunto, di, come dire, di esclusione, di emarginazione, di povertà, eccetera. Beh, questo adesso è un discorso un po' lungo, bisognerebbe fare un po' la storia degli ultimi 30-40 anni, cioè il crollo del muro di Berlino, il fallimento del riformismo, l'avvento del neoliberismo, voglio dire, soprattutto neoliberismo, l'ideologia del neoliberismo ha provocato dei guasti immensi, voglio dire, ancora produce dei guasti, nel senso che questa ideologia che si basa sul fatto che l'individuo è libero di fare quello che vuole, insomma, sì, l'individuo che si fa da sé, ecco, questo ha prodotto dei guasti enormi, ma soprattutto le città sono diventate dei luoghi, come dire, insomma, dei luoghi in cui ci sono delle zone off limits, insomma, senza che senza che siano recintate, ma talvolta anche recintate. Ci sono dei villaggi a Roma, villaggi nel senso di luoghi di edilizia di lusso, che sono recintati da mura, che non si vede niente che cosa c'è dentro, insomma, e questo nella piena campagna romana. Ma ecco, siamo andati a cercare le origini della città per sfatare un po' questo mito della città come luogo di inclusione, come luogo identitario, insomma. E nel passato la città era tutto meno che un luogo identitario, voglio dire. Cioè, le città, Kropotkin in un saggio che si chiama Mutuo Soccorso, Mutual Aids, parlava di le città che si facevano concorrenza, ma concorrenza nel senso buono del termine, per i loro prodotti, per le loro qualità, per le loro virtù, eccetera eccetera. Ecco, invece stiamo assistendo ormai, e su questo discorso sarebbe troppo lungo farlo, a delle città che gareggiano invece per stare ai primi posti della classifica, di una classifica che vede soltanto i flussi finanziari, i flussi turistici, eccetera eccetera. Faccio solo un esempio e poi finisco. Prima Ilaria ha citato gli ospedali, insomma. Allora, pensate che in pieno Rinascimento, qui a Firenze, c'era l'ospedale degli Innocenti che accoglieva i bambini non voluti, insomma, diciamo. E questo ospedale è stato commissionato a Brunelleschi. Oggi, voglio dire, se si dovesse fare, non si fa più, un'opera di accoglienza di questo genere, verrebbe affidato al primo costruttore senza scrupoli, il quale farebbe evidentemente un'opera indecente, insomma. Ecco, questa è un po' la caduta anche di etica delle città. Cioè, le città sono diventate una merce, insomma, ormai sappiamo. Firenze, poi, la conoscete meglio di me, basta andare un po' in giro e voglio dire, è un negozio a cielo aperto, insomma. Cioè, va bene. Grazie. Sì, Firenze, il caso di Firenze è peculiare perché è una città estremamente svenduta, diciamo, a quello che è il sistema del turismo, per cui vive una situazione molto, molto particolare che è quella della città neoliberista, la fast city, no? Quella che fagocita, specula e perde quello che è il suo volto umano, no? un volto sociale, per cui la città dovrebbe essere l'accoglienza, un luogo dell'abitare, dove le persone possono creare e riprodurre degli spazi di vita. E quello che vediamo ad esempio nel caso di Torino e dell'ex MOI, ovvero di questo ex mercato ortofrutticolo che si trova nella zona di Lingotto, e l'esempio chiaro, lampante, sì, è il volume qua che è troppo alto, che fischi. L'esempio lampante di speculazione edilizia che è stato fatto nell'occasione delle Olimpiadi del 2006. Si tratta di 33 palazzine che sono state costruite con un progetto visionario di cui ci racconterà ora Antonella. E che diciamo non è stato portato a termine nel modo in cui era stato progettato e ha creato tutta una serie di problematiche sia architettoniche che di abbandono e di degrado urbano e sociale. E al riguardo lascerei la parola ad Antonella, così che ci possa raccontare la storia di un po' le vicende che hanno contraddistinto quei luoghi e niente, ti lascio la parola, grazie. Grazie a te, buonasera a tutti. Ma io cercherò di essere molto, molto concreta, perché il mio modo di lavorare è concreto facendo la giornalista. Vi do solo due informazioni di fondo. Allora, questo libro che ho curato, di cui ho scritto proprio la parte che riguarda queste palazzine, si chiama Abbandoni perché è la storia parallela di due entità abbandonate, una così muraria, nel senso che queste palazzine, e l'altro abbandono invece quello di centinaia di profughi originariamente dalla guerra di Libia. Cioè, non so se vi ricordate l'emergenza Nord Africa, che è durata ufficialmente fra il 2011 e il 2013. Nel 2013, all'inizio dell'anno, improvvisamente i soldi a disposizione di vari centri di accoglienza sono stati, insomma, consumati, e quindi a Torino abbiamo avuto centinaia di, soprattutto uomini, giovani uomini africani che vivevano per strada e si accampavano ovunque potessero, considerato che fa freddo, insomma, come fa freddo da qui a Firenze, anche da noi. E diciamo che sono stati aiutati, io cerco di essere molto breve, inizialmente da dei giovani molto poco politicizzati, in realtà, che facevano i volontari in associazioni cattoliche e insegnavano loro l'italiano, e un giorno si sono ritrovati loro con allievi con la faccia stravolta e che gli hanno raccontato che non avevano dormito la notte perché rimasti per strada, e quindi si sono resi conto di quello che stava succedendo, si sono messi in contatto con i due più grandi attivi centri sociali che abbiamo a Torino, che è il Gabrio e la Scatasuna, l'ASCA, è stato quasi automatico pensare dove possono trovare rifugio centinaia di persone, che poi pensavano anche fossero molto meno. E quindi sono venute in mente queste quattro palazzine. Voi dovete immaginarvi quattro palazzi di sei piani rimasti per sei anni vuoti in una città dove ci sono circa 25.000 nuclei familiari che hanno bisogno di un'abitazione perché hanno un basso reddito. Allora, questo, come raccontava Arianna, scusami, perdono, ho imbrogliato i nomi, stanno in una zona della città che aveva ospitato gli allievi, gli atleti delle Olimpiadi della neve. Mentre gli altri edifici, gran parte di questi erano stati ricollocati come case popolari, come c'è un l'ente, l'ARPA, che è l'ente che fa le rilevazioni ambientali della regione, insomma, sono rimasti tutti un po' sotto il la tutela pubblica. Quattro palazzine invece erano state rilevate da un fondo immobiliare che cercava di rivenderle, insomma, sul libero mercato. Ma queste palazzine sono state fatte in 9 mesi, ne hanno tirate su 34 di sei piani. E a dire del presidente dei costruttori del Piemonte, che non è propriamente uno sprovveduto, in queste palazzine ci ha lavorato chiunque, perché era stata un'opera veramente titanica riuscire a tirare su tutta questo cemento in poco tempo, per cui è abbastanza interessante vedere il contrasto fra la descrizione degli architetti del progetto, il coinvolgimento di tantissime personalità, anche architetti tedeschi, americani, insomma, che dovevano fare l'esempio di sostenibilità ambientale, no? Questi palazzi in realtà si sono rivelati un disastro, nel senso che tutti coloro che hanno gli enti che li hanno dovuti poi abitare, li hanno presi li hanno riconvertiti e hanno investito più o meno quanto è stato necessario per costruirli, per renderli abitabili. E quindi diciamo che nel 2013 c'è stata questa occupazione, che io credo che sia probabilmente la più grande concentrazione umana, non so, forse in Europa, che si è, come dire, dovuta prendere uno spazio per poter vivere. Parliamo di 1200-1300 persone che vivono in luoghi dove dovrebbero starcene 300, insomma, sono 1000 di troppo. Quindi adesso io nel nostro libro, che ha pubblicato Edizioni SEV27, un editore di Torino indipendente, l'ultima cosa che si vuole fare è esaltare questa situazione. Cioè, diciamo che è stato il meglio che potessero trovare queste persone, ma queste persone si trovavano in uno stato di abbandono totale, e solo grazie al fatto di essere stati, come dire, seguiti da un comitato di solidarietà fondato da questi primi ragazzi, studenti neolaureati, devo dire molto generosi e molto idealisti, molto, insomma, ammirevoli, posso solo dire, queste persone sono riuscite ad ottenere, per esempio, una cosa che non avrebbero avuto, cioè il poter avere una residenza, perché se uno non ha una residenza non può avere un documento, non può avere una tessera sanitaria, se hai dei bambini non li puoi neanche, cioè sei un fantasma fondamentalmente su un territorio. E la giunta di centrosinistra di Fassino si è proprio comportata con queste persone come se fossero dei fantasmi, cioè hanno proprio letteralmente fatto finta che non esistessero, mentre la nuova giunta del Movimento 5 Stelle ha un'altra strategia, cioè fa finta di occuparsene. Mi fermo qua per il momento. Sì, grazie. Sì, il punto che tiravi fuori tu sulla residenza è un punto importante, perché vediamo ad esempio all'ex MOI che quasi la totalità delle persone che vivono là dentro sono titolari di protezione internazionale o umanitaria, e questo li qualifica in quanto esse hanno gli stessi diritti di un cittadino italiano, hanno diritto a un'assistenza quasi, poi mi correggerà meglio Diletta se vorrà intervenire, e dovrebbero avere l'accesso a tutta una serie di diritti, quali il diritto alla salute, all'assistenza sociale e all'istruzione, tutti i diritti che però vengono bloccati dal fatto che queste persone non hanno una residenza e quindi non possono essere iscritti all'anagrafe e non possono avere quei documenti che permettono l'accesso a tutti questi diritti. Ecco, secondo me il punto sul diritto alla cittadinanza è un punto importante, perché ci troviamo nella contraddizione evidente per cui queste persone abitano dei territori da cui sono avulsi, sono esclusi da tutte quelle quelle cose che permettono di far parte di un tessuto sociale, che poi è, secondo me, uno dei problemi grossi del sistema d'accoglienza, per cui vediamo centri d'accoglienza sparsi in luoghi che non sono sia geograficamente sia a livello di servizi, insomma, sono marginali, e quindi questa produzione di marginalità si riproduce e in questo tipo di contesto è difficile pensare a una città accogliente. Ecco. E niente, questa era una riflessione mia, se volete aggiungere qualcosa voi. E sì, perché abbiamo Enzo che deve prendere il treno fra poco, purtroppo siamo un po' stretti di tempo. Ma insomma, da Aristotele in poi, fino al 1600, la città è stata sempre definita come un insieme di persone che si sono messe insieme per vivere felicemente. Voglio dire, mi sembrerà strano, nel senso che questa cosa fa inorridire tutti, ma è questa. Allora io dico, questo posto, per esempio, fatto di anche di questi disegni, della gente che si incontra, che mangia, che beve, che gioca, eccetera, eccetera, eccetera, questo è un simbolo di una città, nel senso che qui c'è, per usare il linguaggio di Lefebvre, il valore d'uso, cioè le cose si fanno perché è piacevole. Poi fuori di qui c'è il valore di scambio, cioè si compra, si acquista, si spende, si consuma, si butta, eccetera, eccetera. Allora, questa è ormai la differenza che, come dire, che c'è nelle nostre città. Cioè voi siete un'isola di rifugiati, di esclusi, i quali, voglio dire, in realtà stanno ritornando alle origini, no? Di cosa era la città, le feste, le processioni, i riti, eccetera, eccetera. Questa era la città, insomma, la festa soprattutto, cioè le persone che vivevano in questa solidarietà, convivialità, eccetera, eccetera. Noi abbiamo perso il senso di tutta questa cosa, ovvero l'hanno perso gli altri, perché voi almeno lo ritrovate in questo posto, però lo ritrovate come reduci, come reghetti, diciamo così, come scacciati, ecco, dalla città. Siete scacciati dalla città, perché la città è diventata un'altra cosa, è diventata soprattutto di altri, di proprietà di altre persone, di altri poteri, insomma, no? Quelli che fanno gli stadi, fanno gli aeroporti, fanno le grandi infrastrutture, fanno i supermercati, fanno gli outlet, eccetera, eccetera, fanno tutte queste. Mentre invece il vivere della città è proprio, il senso è proprio questo. Cioè, io mi chiedevo chi ha fatto tutti questi disegni, voglio dire, no? Chi ha sporcato i muri, per usare un linguaggio dei giornali, insomma, chi ha sporcato i muri. Ecco, lo ha fatto certamente non per qualche cosa, insomma, no? per essere pagato, ma perché vuole esprimere, vuole come dire, comunicare, insomma. Io trovo che questo è il senso di una città, e purtroppo ce lo siamo perso. Quindi direi che a tal proposito io darei la parola a Ilaria, che ha scritto molto su quella che è la città neoliberista. E insomma, spiegaci un po' quali sono le dinamiche di questo contesto un po'. Lo farò stavolta a partire dai libri di cui stiamo parlando. Mi è piaciuto molto, come ha detto, come Enzo ha sottolineato, la vostra azione resistente, ma resistente, una resistenza che progetta, che è capace di immaginare nuovi mondi. Ecco, io studiando appunto la forma della città in relazione all'accoglienza, mi sono accorta, e qui non ho scoperto niente di nuovo, insomma, che nel momento in cui si è voluto razionalizzare, no, l'accoglienza, che si è rotto qualcosa, cioè come Foucault chiamava gli ospedali in una famosa ricerca collettiva che fu fatta sulla costruzione dell'ospedale di Parigi dopo l'incendio. Siamo nel XVIII secolo, Foucault dice si costruiscono delle macchine da guarigione, cioè l'ospedale si specializza, diventa una macchina e non accoglie più quella promiscuità di bisognosi, ma si specializza in albergo dei poveri, ospedale, per gli, eccetera, nelle varie sezioni. Si specializza e si impoverisce, l'architettura si impoverisce, se pensiamo alla sala del pellegrinaio dell'ospedale Santa Maria della Scala a Siena, affrescata con affreschi bellissimi, che fino agli anni 50 era sala che era utilizzata per ospedale e si cercava di guarire o di morire dignitosamente sotto a degli affreschi rinascimentali che raccontavano l'accoglienza e le opere di carità. Ecco, tutto questo si perde questa promiscuità del bisogno, cioè degli esseri che hanno bisogno, di pari passo con la promiscuità urbana, e gli ospedali vengono espulsi dalla città, no? L'ospedale di la costruzione dell'hotel di Parigi è esemplare in questo, cioè si decide di togliere l'ospedale dall'Île de la Cité ai piedi di Notre Dame, posizione classica dell'ospedale, perché i vescovi erano obbligati da un'enciclica papale, eccetera, appunto ad ospitare i bisognosi. Quindi viene spostato da Notre Dame verso una zona non costruita, fuori dalla città, perché gli ammalati non potevano, diciamo, appestare la città, non potevano stare all'interno, quindi si escludono la città moderna ha escluso queste forme di bisogno. La città neocapitalista fa di più, cioè rende l'ospedale un'occasione di speculazione. Pensiamo all'ospedale di Pistoia o a tutti gli ospedali costruiti in project financing in Toscana. Sono occasioni di profitto per quei costruttori di cui parlava Enzo. Cioè tutta la questione, diciamo, del simbolico, della città che si crea, è tutto sparito. No, e quello che è interessante è che l'accoglienza diventa un'occasione di riuso la stessa parola, di speculazione, rendita. Si è parlato è stato accennato velocemente la cosiddetta turistizzazione e turistificazione delle città, no? Non è più un'accoglienza, cioè è sparita tutta quella vocazione a cui ho appena fatto cenno della gratuità ospitale, del dono, il controdono, niente, è tutto valore di scambio, appunto. No? Questo da una parte, dall'altra parte invece mi viene in mente, qui capita proprio a puntino la cosa, è che questi edifici, molti di questi edifici che appunto tra XVIII e XIX secolo si trasformano da luoghi di accoglienza quasi in caserme, e c'è, ora non abbiamo il tempo di leggerlo, ci sono i saggisti, gli studiosi teorici dell'ospedale razionale che si chiedono: ma che male c'è se questo ospedale diventa quasi una caserma, che male ci può essere? Che male ci può essere? Comunque a me interessava, cioè, questi luoghi dell'accoglienza, anche di natura diversa come le caserme, un'accoglienza di tutto un altro tipo, quindi non si può fare, ecco, sono gli edifici su cui oggi nella città neocapitalista si cerca di trarre veramente il massimo profitto. Pensiamo alle varie caserme o ex ospedali, poi diventati conventi, poi diventate altre cose, eccetera, che oggi non hanno una destinazione nella città. Ecco, che cosa si pensa di fare? Qual è la soluzione che viene vista come la migliore, l'unica, perché poi non hanno altre idee gli amministratori, è quella di venderle, l'invest in Florence, invest in Tuscany, eccetera, queste cose qui. E invece sarebbero occasioni fantastiche per invece ridare anima a questi poveri quartieri mercificati, no? All'interno di un Sant'Orsola, si potrebbero fare cose bellissime, dall'accoglienza provvisoria, residenze provvisorie, case popolari, luoghi di aggregazione, sale, cioè tutto, luoghi di lavoro, cioè dei centri appunto rionali da cui poi ridare vita anche attraverso la forza viva dei migranti, come l'abbiamo chiamata, cioè di queste innumerevoli persone che arrivano con una voglia di diritti e di libertà che noi ci siamo un po' dimenticati, no? Questo, attraverso questa forza si potrebbe, e attraverso questi luoghi che non sono, non devono essere occasione di speculazione, ma devono essere occasione di, appunto, ridare vita, ossigeno ai rioni, no? All'interno proprio del corpo della città. Potrei dire questo, ecco. Che dici? Iniziamo un po' a dare spazio, sì, alle domande. Se ci sono delle domande, le osservazioni, riflessioni di qualsiasi tipo, sentitevi benvenuti, insomma, a partecipare liberamente. Cioè, vi ricordiamo che siamo alla Polveriera, per cui non vogliamo che sia, ecco, una cosa molto frontale, per cui noi raccontiamo loro, noi poi raccontano la loro, se avete voglia di intervenire siete benvenuti. Secondo me qualcuno c'è. Olmo? Bene, allora, quello che dicevi, ci sono? Ci stanno pensando dopo, bene. Allora, intanto intervengo io che sono facilitata da questo ruolo, diciamo, mediatrice, perché hai toccato un punto, secondo me, di nuovo importante, che è quello dell'immaginario. Prima, mentre eravamo fuori che chiacchieravamo, hai parlato di vuoti immaginativi, giusto? Che appunto sono quelli che sembrano contraddistinguere un po' l'azione politica, legislativa, amministrativa, e quello di non riuscire a immaginare un'alternativa che non sia quella del calcolo economico, del quadrato. Anche nel sistema d'accoglienza vengono tirati su a volte delle tendopoli di emergenza, o vediamo anche nel caso del sisma, di tutto quello che diciamo crea un disagio umano importante, per cui la casa non c'è più o non c'è mai stata, e si tirano su dei tendoni su un asse in maniera quadrata, senza pensare quali possano essere le funzioni o i bisogni delle persone che vivono sui territori. E un punto che a me sembra importante e su cui sto riflettendo ultimamente è quello un po' del capitale sociale umano che c'è già di partenza, e che è quello delle persone che arrivano qua e che non sono persone piombate dal cielo, hanno delle storie, hanno delle esperienze, hanno delle competenze, e quindi hanno già... hanno quella forza viva che permette delle dinamiche che sono di generazione e rigenerazione. Ad esempio, noi vediamo come nei luoghi occupati si osservino spesso delle dinamiche che sono quelle della cura, della valorizzazione, per il fatto che lo spazio che uno si conquista in qualche modo lo vive, lo sente suo e lo valorizza in qualche modo perché ci vive e quindi gli dà un significato. Ecco. Senti, io potrei rispondere con alcuni esempi, no, che abbiamo a portata di mano, esempi appunto di questi atti creativi, no, di queste controffensive al neocapitalista, ma che sono qui intorno a Firenze. Basterebbe che gli amministratori ci dessero un occhio, notassero, ad esempio, faccio l'esempio di Mondeggi, no? Mondeggi l'esperienza di Mondeggi si muove in un panorama di accaparramento delle terre, le multinazionali comprano le migliori terre per vino da fare vino da esportazione, mettere in piedi agriturismi di lusso, rifarsi nuova veste, nuovo fa, ecco, oppure all'interno di un panorama di vendita delle terre pubbliche. Ecco, Mondeggi si muove, riesce a mettere a fuoco anche il tema dei beni comuni. Ecco, come, mi chiedo come sia possibile, no, che l'amministrazione di Mondeggi, l'unica possibilità che veda, che è quella della vendita, mentre se è una delle moltissime, ora faccio questo esempio, delle moltissime esperienze che appunto facendo leva sui beni comuni aggiungono, no, una qualità incrementale al bene pubblico. Il bene pubblico è inusucapibile, invendibile, inalienabile, indivisibile. Ecco, oppure l'Assemblea della Piana, che mette a rete le varie vertenze settoriali della Piana, che è gravata da grandi progetti, dall'aeroporto che si infila in un'area dove non ci sta uno spillo più, dall'inceneritore che ora per fortuna sembra quasi tramontato, e le varie, ora lo stadio con una variante che non passa neanche più dal consiglio comunale, ora abbiamo questa nuova formula che bisogna ancora mettere a fuoco e di cui parleremo il 28 sera all'ex Emerson. Ecco, anche nella situazione, no, dell'Assemblea della Piana, che cosa si rivendica? Si rivendica ad esempio il parco che il piano prevedeva anziché un aeroporto. Ecco, e qui viene messo in campo la questione ad esempio del blocco del consumo di suolo, ma con un passo in avanti, non solo blocco del consumo di suolo, stop a nuova costruzione, ma addirittura restituzione di una fertilità, cioè demolizione demolizione degli edifici dismessi che non servono più, e quindi restituzione all'agricoltura dei terreni, o addirittura la messa in crisi delle volumetrie già concesse per finalità produttive e quindi economiche in appartamenti, che, come dire, equazione che non sta scritta da nessuna parte. Anche questo potrebbe essere un'occasione, no, per rimettere in gioco certi passaggi così pienamente economici. Cioè, come dire, le soluzioni ci sono ben visibili. La controffensiva al neocapitalismo le ha messe in campo, ha prodotto controprogetti, ha prodotto riflessioni, eccetera, riflessioni critiche, basterebbe osservarle e poi metterle in pratica. Evidentemente la forza economicista non permette immaginazione, cioè è questo che manca, cioè questo vuoto, no, che hanno in testa, diciamo, faccio l'esempio qua a Fiorentino, hanno in testa gli amministratori un vuoto immaginativo che non permette la liberazione di questa creatività, no, che pure è latente in luoghi come questi. Allora, intanto salutiamo Enzo. Mi rimmergo in questa folla di gradini che sono i turisti e mi prendo il treno, per cui vi saluto, vi ringrazio, vi invidio, perché invece voi... Nel frattempo ci sono delle domande? Altrimenti ho anch'io una considerazione... No, una considerazione un po' acerba fatta durante ascoltando, ora purtroppo non manca un interlocutore, però appunto in tutto questo discorso la città, no, è stata connotata come il luogo dell'accoglienza per natura, e effettivamente guardando tutto questo è stato fatto concentrandosi sulla origine della città in epoche molto antiche, no? Però se andiamo a vedere la città che noi conosciamo, non solo la città neoliberista, ma anche la città non solo moderna, andando a vedere per esempio degli esempi molto vicini che sono di fatto anche un po' il prototipo, cioè se andiamo a vedere per esempio le città nuove fondate da Firenze, che a quell'epoca diciamo possiamo chiamarla metropoli internazionale, no? Centro de- cioè una città che rappresentava quello che oggi può rappresentare Pechino, non lo so, cioè una città che da sola produceva più tessuti di tutta l'Inghilterra, cioè una potenza impressionante, e che come scelta di azione sul territorio circostante fa quella di creare delle città di fondazione, no? Che ora non sono più considerabili città, ma comunque in quell'epoca, e per esempio, non so, San Giovanni, Aldarno, no? Sono esempi di questo tipo, e sono esempi che sono già chiaramente connotati come la conquista di una repubblica mercantile sul territorio feudale, no? Cioè si tratta di fatto di una guerra economica al feudalesimo, la fondazione di... E in questa azione si vedono entrambe i discorsi, ma cioè si vede la liberazione in un certo senso di chi può scappare dal castello del feudatario e entrare in una città, in uno spazio dove è libero da quei legami tribali. Però c'è nel contempo cioè lo scambio è comunque già, che è già insito, che poi viene magari più esplicita nella metropoli industriale, è quello poi di utilizzare come valore, sostituire a quei valori tribali quello del valore del denaro, no? del commercio come valore. E quindi in questa città, cioè già in quel momento lì si vedono entrambe le cose, ma in quel momento proprio credo che si inizi già a vedere la strada che poi si va a percorrere successivamente, perché comunque è una città, e qui appunto vorrei, è una città già pianificata dall'alto, quindi non è una città che si forma come ecosistema vivo attraverso quello che sono appunto la vita stessa degli abitanti, ma una città imposta e in un certo senso già schematizzata su un lontanissimo piano cartesiano, che sarà poi quello in cui il territorio, il capitalismo ha completamente suddiviso il territorio, e quindi diventa già una città che di per sé non nasce dal valore d'uso, ma inizia già questo percorso dentro cui siamo, e che di fatto rappresenta appunto la perdita del valore di città. Allora in questo scusate, in questo magari c'è anche un po' una provocazione, se si va appunto a ragionare, a vedere la città sotto questo profilo, e se si va a vedere la città come di fatto il vero motore del capitalismo, perché comunque la città agisce, cioè in un discorso di accoglienza, andando a finire su quello che è il tema, la città di fatto è il grande magnete che genera crescita attraverso il sistematico saccheggio del territorio, non solo fisico ma umano, cioè la migrazione che noi ora viviamo a livello intercontinentale, a livello globale, è una migrazione che agiva a livello locale fino a esaurire, diciamo, le risorse esistenti, e che fa del fatto dell'accoglienza di fatto il fatto della crescita, perché questa umanità nuda, povera, che si presenta alle porte della città e che magari ora noi possiamo vedere nelle slum dei paesi più poveri, è di fatto quella che poi deve essere vestita, deve avere una casa, deve avere un lavoro, ed non a caso uno dei motori principali dello sviluppo è sempre stata l'edilizia, no? Quindi di fatto è una cosa abbastanza insita in tutto questo processo. E allora all'interno di questo, per esempio, l'urbanistica si pone comunque come uno strumento che di fatto è nato all'interno di questo processo, è già nato all'interno di un processo che non partiva dal valore d'uso, ma partiva da un potere centrale e da una volontà economica di utilizzo del territorio e della vita dei cittadini. E quindi appunto quale visto che so che c'è una difesa dell'università, se può confortarci su queste tematiche. Non vorrei però monopolizzare il microfono, perché abbiamo anche Antonella che è venuta da lontano. Oddio, la domanda di Olmo era epocale. Dunque, sì, che posso dire? L'urbanistica certo nasce con la crisi della città, con la rottura degli equilibri, come la chiamano gli storici, il momento, la perdita della dimensione, della forma, eccetera. Effettivamente però va riconosciuto che questa disciplina aveva comunque un mandato di tipo sociale, cioè cercava di equilibrare le domande, i bisogni popolari con le pressioni di tipo appunto di rendita, no? Sulla città. Ecco, questo si è perso a partire dagli anni 70-80 con la grande trasformazione, no? La grande trasformazione neocapitalista, e quindi l'urbanistica sì, si è trasformata in una professione, una disciplina, una materia, come si vuol dire, che ha calato la maschera e si è trasformata appunto in una disciplina che ha facilitato le operazioni della rendita sulla città, il valore di scambio, eccetera. Di questo però ne abbiamo parlato in un altro libro, di cui magari parleremo in un'altra occasione, che si chiama Miserie e splendori dell'urbanistica, sempre mio e di Enzo, e è uscito in questi giorni per Derive a Prodi, e che insomma, se volete sfogliare, ne abbiamo delle copie fuori. Però tornando sull'accoglienza, no, il motivo per cui abbiamo scritto questo libro, tra le varie cose, è per ripensare, no, questa città che io spesso definisco città dei recinti, e prendo questa definizione da Edoardo Salzano, che è un urbanista, un pilastro dell'urbanistica che forse conoscete, dirige il sito Eddyburg, su cui trovate molte cose. Ecco, questa città dei recinti, no? Una città dove si svolgono delle funzioni, delle monofunzioni, abbiamo degli abitanti non promiscui, no? Come abbiamo detto prima, se voi andate verso Piazza della Signoria vi accorgete che a un certo punto oltrepassate anche un recinto che non c'è, che non si vede, ma che è quello del quadrilatero turistico, cioè là dentro la città neocapitalista mette a frutto lì si spreme, la città viene spremuta come un limone per produrre reddito, rendita anche una rendita posizionale. Chi possiede dei metri quadri lì una ricchezza, no? Una ricchezza parassita è la rendita. Ed è una monocoltura che viene coltivata appunto con forza dall'amministrazione attuale. Questa necessità di superare, no, queste recinzioni, le cittadelle del potere, i centri direzionali, le periferie sconfinate in cui gli abitanti sono marginalizzati e periferizzati, mentre all'interno delle cittadelle si svolgono i giochi, no? i giochi del potere. Questo ci interessava anche dire, cioè di queste città che vengono continuamente attraversate da persone diverse, da flussi diversi che arricchiscono e non, cioè è un libro, diciamo così, che cerca di smontare anche una retorica dell'identità delle città. Non so, io forse però Allora, mi sento di introdurre un altro tema, che è quello del tempo sospeso, dell'attesa, di un tempo, sì, in sospensione. E diciamo si ricollega a tutta la questione dei beni comuni, no? Che sono privi di una funzione, che aspettano qualcosa. Beni comuni possono essere le terre, ma possono essere anche le strutture edilizie. E quindi, però un tempo che riguarda poi anche gli abitanti sostanzialmente, quindi depaupera sia i beni comuni ma poi anche il capitale sociale. E quindi in questo caso ecco, l'ex MOI credo che sia stato interessato ed è tuttora interessato da un'attesa di qualcosa, perché prima ne parlavamo anche in separata sede. E quindi che cosa ha portato questa attesa durata anni? Ecco, se... Ma io spero di non dover affrontare dei temi che sono più grandi di me, perché non... Ma quello che mi sento di dire, io sono stata... io sono una torinese che sono andata via da Torino all'età di 20 anni più o meno e tornata 25 anni dopo in una città completamente trasformata, nel senso che io sono cresciuta davanti a una fabbrica di pneumatici che inquinava, che non sto a dirvi, era una città industriale. Torino oggi è una città dal punto di vista economico completamente depressa, cioè ha un livello di disoccupazione giovanile che è altissimo. Ogni anno chiudono moltissime imprese, di cui comunque il 90% di queste imprese ha meno di 10 lavoratori. Diciamo che è veramente in uno stato difficile. Riguardo ai beni pubblici, il comune, per esempio, dopo le Olimpiadi, che vi ricordo sono passate alla storia come la panacea di tutti i mali di Torino, no? Dopo le Olimpiadi il comune aveva un buco di circa 4 miliardi di euro e ha cominciato a mettere in vendita i suoi beni pubblici, e una delle operazioni che ha fatto è di prendere 90 milioni di euro da questo fondo immobiliare nel quale è confluito anche parte di questo villaggio olimpico. Ma insieme a questo sono confluite altri 19 edifici, alcuni stupendi, meravigliosi, che non è mai riuscita a vendere questo fondo immobiliare. Per cui la realtà è che poi voi parlavate di neoliberalismo, di reddito, e che queste cose, cioè, non si vendono neanche più. Per cui tutta l'operazione di voler liberare, parlano di liberazione addirittura delle palazzine del MOI, sarebbe bene che dicessero le vogliamo sgomberare, perché 1300 persone non possono vivere in spazi che sono fatti per 300 persone, quindi per la dignità umana di queste persone è giusto che gli si trovi una sistemazione migliore. No, invece dicono che devono restituire questo bene alla cittadinanza. La cittadinanza di questo bene non sa assolutamente cosa farsene, nel senso che a Torino abbiamo tutti gli edifici storici, come, non so se avete mai sentito, la Cavallerizza, che è un edificio sotto, cioè patrimonio UNESCO, per darvi un'idea, migliaia di metri quadrati assolutamente abbandonati, dove c'era la zecca ai tempi dei Savoia, dove c'erano tutti gli edifici dei militari, i cavalli, una cosa meravigliosa. Abbiamo tutti gli edifici industriali abbandonati, quasi tutti, meno uno o due su cui hanno concentrato l'attenzione le banche, le fondazioni, hanno investito tantissimo lì per farli diventare un posto di solito del divertimento, dello spettacolo, eccetera. abbiamo libere le caserme, abbiamo liberi degli ospedali, cioè di fatto gli interventi pubblici non riescono neanche più a essere, come dire, liberisti, cioè a perseguire del reddito. Cioè noi in Valle di Susa non si capisce cosa si sta succedendo con la TAV, per esempio, non ne parla più nessuno, se avete notato. Cioè sembra che manco i francesi ne parlino più, perché l'hanno messa veramente non fra le loro priorità. Questa operazione nella quale sono stati bruciati, non so, non riesco neanche a percepire l'ordine di grandezza dei soldi che sono stati bruciati in questa operazione, sono fatte semplicemente per far girare dei soldi, cioè non hanno la funzione di perseguire degli interessi, cioè non ci sono neanche più le merci che passano i confini, ci sono ben altri problemi, per cui io non riesco, ecco, io ho trovato questa città da una parte alla ricerca di una rinascita. Volevo solo dire questo, la questione dell'accoglienza. Allora, una città come Torino, che ha raddoppiato i suoi abitanti fra gli anni 60 e gli anni 70, e vabbè, c'era la Fiat, è arrivata tantissima gente dal sud, dal Veneto, dalle campagne, e non sono stati accolti per niente, cioè ognuno si è arrangiato per trovarsi un posto dove stare. Allora la piccola variabile che c'era era che c'era comunque l'espansione industriale, c'era il lavoro, per cui con il lavoro prima magari la gente ha dormito nelle baracche, poi negli scantinati, e poi è riuscita anche ad avere una sistemazione dignitosa. Oggi come oggi il problema che affronta questo libro Abbandoni, che sembra raccontare una storia circoscritta locale, ma è assolutamente una storia, cioè, nazionale, probabilmente non vorrei dire cosmica, è che il lavoro non c'è. Non c'è per questi giovani che arrivano dall'Africa e che sinceramente hanno sicuramente più difficoltà, avranno tutti le capacità di arrangiarsi, di sopravvivere, si mettono a raccattare il ferro, a raccogliere la frutta d'estate, fanno le cose più incredibili per sopravvivere, ma di fatto hanno delle barriere enormi da superare, e quella della lingua, e quella del fatto di essere troppo giovani, del fatto di essere soprattutto troppo neri, perché sono africani nerissimi, stanno in una situazione dove anche, io parlo dei nostri figli perché insomma potrei essere, insomma sono di questa generazione qui, fanno difficoltà ad avere qualsiasi tipo di lavoro a tempo indeterminato, cioè non esistono più. Immaginatevi un africano che ha un rapporto che lavora con Foodora e va a cercare casa sul libero mercato, ma povero disgraziato, ma neanche se. E allora io dico, bisogna trovare, e lo dicono anche sempre di più le persone che proprio lavorano in questi ambiti, il discorso che se hai il lavoro poi risolvi tutto il problema, i problemi non funziona più così, perché il lavoro non c'è, i lavori sono precari. Occorre che proprio queste strutture abbandonate, e non parlo adesso dei capannoni industriali che sono un po' più problematici, ma gli ospedali, le scuole, ci sono tantissime scuole abbandonate, le caserme, che vengano fatti dei progetti di residenziali, collettivi, no? Che possano dare prima la casa, cioè non si è mai ragionato in questo modo, però sempre, ci sono sempre più persone che si occupano di questo, che dicono forse non funziona più l'idea prima il lavoro, se c'hai il lavoro risolvi tu, cioè prima devi avere un posto dove dove stare, e le nostre città sono piene di questi spazi, cioè questo qui è uno di questi, per esempio. Cioè, non dico che devono venire a occupare lo spazio occupato, ma... Allora, visto che abbiamo 5 minuti, io lascerei lo spazio a riflessioni, domande. Eccola, Diletta. Secondo me è importante fare anche una riflessione sul fatto di come appunto venga poi affrontata l'accoglienza, cioè è vista comunque come un qualcosa di emergenziale a cui dobbiamo... Cioè, ci appelliamo sempre alla questione dell'emergenza, al fatto che servono mezzi immediati, strutture immediate, quando però il fenomeno, come si è parlato già precedentemente, insomma, ha sicuramente una storia. E questo produce una questione molto contraddittoria, perché non viene affrontato il fenomeno in una maniera strutturale, per cui tutte le strutture che vengono adibite per la prima e per la seconda accoglienza, fino ad arrivare poi alle tendopoli, sono strutture che vengono pensate e progettate il concetto emergenziale e non strutturale. Quindi questa è una, diciamo, nota importante per far capire poi come avvenga una marginalità sociale e urbana. Perché nel momento in cui si creano delle strutture adibite appositamente per un certo tipo di popolazione, e poi queste strutture, come si sa, purtroppo non sono neanche messe in rete, o comunque la gestione è data, non è gestita sempre dalle amministrazioni, ma proprio perché rientra in una questione anche di ordine pubblico e immigrazione, spesso sono le questure che hanno in mano, diciamo, il primo approccio sulla decisione. E questo è un problema che ad esempio si riscontra soprattutto nelle strutture d'accoglienza, nei CAS, che sono strutture di seconda accoglienza, quindi nate per far fronte a un arrivo eccessivo e concentrato, quindi accompagnare le strutture di prima accoglienza, cioè ad oggi ricoprono il 70% dell'accoglienza italiana. E queste strutture sono gestite da, appunto, la questura, per cui dalla prefettura, e quindi c'è anche proprio uno scollamento a livello di governance sul territorio. Mentre appunto le tendopoli, che sorgono, cioè, principalmente nel sud Italia, sono anche quelle mosse da una logica di controllo e di gestione, ma non certo di inserimento e di integrazione. Quindi si creano delle enclave nel senso stretto del termine, che poi si riconnettono al discorso che facevamo prima sulla sospensione. Quindi è una marginalità sia territoriale che sociale, però anche in un certo senso voluta dalla logica con cui poi vengono affrontate queste questioni. A questo proposito volevo solo farvi un esempio, perché si parla sempre spesso del sud. Noi in Piemonte, proprio vicino a Torino, abbiamo in realtà è nel Cuneese, il Saluzzese è una delle zone di produzione della frutta più estese, si producono pesche, mele, mirtilli, eccetera. Allora, ormai da 7-8 anni a questa parte, la maggior parte dei braccianti stagionali sono dei giovani africani. Queste persone vengono regolarmente, o arrivano a giugno tutti gli anni, e stanno accampati in un modo vergognoso, dove riescono. Ultimamente, negli ultimi anni, al Foro Boario, che è una della città di Saluzzo, che è una zona dove fanno di solito appunto il mercato, espongono i macchinari agricoli. Quello che volevo dirvi è questo: la Caritas, che è stata per anni l'unico ente che ha offerto delle tende, insomma, e alcuni container con servizi, eccetera. Lo scorso anno la Caritas stessa si è rifiutata di mettere queste tende, perché dicono: in questo modo noi promuoviamo la totale deresponsabilizzazione di tutti gli altri, dei comuni, della prefettura, di tutte le istituzioni pubbliche che dovrebbero farsi carico, l'associazione dei coltivatori e via discorrendo. E quindi l'anno scorso non hanno messo queste tende, fondamentalmente per protestare contro la mancanza di responsabilità pubblica, per cui, ed effettivamente l'anno scorso è successo un macello, nel senso che lì vicino c'è l'isola, la cosiddetta isola ecologica, dove vanno i cittadini a portare i rifiuti grandi differenziati, e i ragazzi africani andavano a prendersi le cose, sono fatti un villaggetto di cartoni, di lamiere, di qualsiasi cosa, nel suo genere magari anche più protettivo delle tende della Caritas dell'anno prima, ma e le uniche cose che sono riusciti a fare i coltivatori diretti, nonché appunto, è mettere qualche container, ma molto pochi, in posti veramente ignobili, qualcosa tipo fra il muro del cimitero del paesino, e cioè in posti dove nessuno potesse vedere, sotto il sole caliente, perché poi parliamo dell'estate, quindi non è che lì in estate faccia fresco, e questo appunto per citare che persino la Caritas, che poi stiamo ritornando al fatto che gli enti religiosi si occupano dei bisognosi, perché a Torino è così. C'è l'ufficio pastorale migranti, sì, è diventato ufficialmente il servizio sociale della città, così come il Cottolengo, così come i dormitori pubblici, così, cioè a Torino è così, cioè se ne occupa la Chiesa, cioè se ne occupa di nuovo la Chiesa. Sono altre domande? Una brevissima risposta di Letta. È la svolta securitaria, quella che vi ho tratteggiato velocemente, cioè una condizione di bisogno diventa un'emergenza, no? La città in emergenza, diceva Benjamin, lo stato di emergenza, o la shock economy. Cioè la shock economy, nel momento della catastrofe, gli effetti della catastrofe si risolvono manu militari, cioè sono esperimenti per risolvere in senso securitario delle questioni che sono sempre meno un'emergenza, ma diventano sempre più una normalità. L'Aquila insegna, cioè gli accampamenti, i campi, appunto, anche quella è una forma di accoglienza, cioè di una cittadinanza che ha perso la città, ha perso la casa, che viene risolta con strumenti militari, con campi in cui si perdeva la libertà, no? La libertà, i diritti, quelli del cittadino normale, insomma. Quindi, insomma, è la shock economy, baby. Allora, niente, io chiuderei qua perché dobbiamo passare al prossimo tavolo. E ringrazio Ilaria, Enzo, che ci ha lasciato da poco per andare insieme ai turisti a trovare la via verso il treno, e a Antonella. E potete trovare entrambi i libri fuori, ora c'è il banchino fuori, esatto. Avvenita diretta, per l'appunto, per cui se siete interessati potete trovare i libri. Ora poi proseguiamo con il prossimo tavolo, che è Guerre di Rete, la presentazione di questo libro, edito La Terza, il 2017, con l'autrice Carola Frediani e la partecipazione di Autistici Inventati. Inizierà fra poco, per cui sappiatelo. Rimanete sintonizzati se siete in radio, Grazie.